Oltre Tevere, Vaticano e dintorni. Di Katia Caramelli e Don Willy Volonté. Buona domenica a tutti. L'impegno dei cristiani nella società non deve conoscere flessioni o ripiegamenti. È tornato a ribadirlo con forza il Papa. In un momento in cui dilagano gli scandali nella politica, ma se oggi si votasse, i cattolici chi sceglierebbero? La risposta in un sondaggio Ipsos voluto dalle ACLI. Ne abbiamo parlato con il presidente Andrea Olivero. C'è da parte dei cittadini italiani una richiesta fortissima di un rinnovamento della politica, che deve partire dalle persone ma anche dai programmi, rimettere al centro l'onestà, l'attenzione al lavoro, al contrasto alla povertà, la tutela dei redditi, questioni molto concrete che invece paiono purtroppo ancora fuori dall'agenda della politica. Mentre finanza e capitalismo, tipici dell'individualismo, appunto, sono messi in disparte. Per quanto riguarda i cattolici si rilevano alcuni dati preoccupanti. Innanzitutto l'astensionismo tra i cattolici praticanti è più alto, siamo al 43% di astensionismo presunto, naturalmente, ma è un dato che ci preoccupa molto, e i consensi cattolici al Movimento 5 Stelle arrivano al 14%, segnalando che c'è un grillismo bianco, chiamiamolo così, che sicuramente indica un malessere, una richiesta di cambiamento molto forte. Si chiede di avere qualcosa di nuovo, ma non un partito dei cattolici, un salto di qualità piuttosto nel loro impegno in politica e in particolare su temi come l'onestà e l'attenzione ai deboli, non soltanto sui valori eticamente sensibili. Presto ci sarà un nuovo incontro di Todi. Alla luce di questo sondaggio, su cosa ci si dovrà concentrare? Certamente sulla formulazione di proposte che vadano incontro a quelle che sono le esigenze quotidiane dei cittadini. C'è un problema enorme del lavoro, c'è una questione di redditi, c'è una situazione di mancanza di sicurezza per il futuro. Su questo noi dobbiamo concentrarci e provare a dare delle risposte per stimolare la politica a non essere fumosa. Tutto vogliono gli italiani, lo abbiamo visto anche dal sondaggio, tranne che tornare indietro, cioè a delle sterili alleanze che non vadano ad affrontare queste tematiche. È ipotizzabile una sua candidatura? Non è in questo momento all'ordine del giorno. Certamente noi ci impegneremo in questi prossimi mesi in maniera determinata per il rinnovamento della politica. Se poi questo vorrà dire che io o altri amici delle ACLI, degli altri movimenti, si impegneranno diversamente, questo sarà frutto di questo processo, ma soltanto a questa condizione, nessuna fuga in avanti, perché il nostro compito sta nella società civile. Vi lascio a Don Willy Volonté, a domenica prossima. Per restare sulla cronaca, non si placa l'insofferenza del mondo arabo. L'ultimo filmato su Maometto, ritenuto dagli islamici blasfemo, è l'ennesima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per un osservatore esterno è difficile capire chi abbia ragione o torto, ma almeno un'esigenza si fa avanti: la gente è stanca che la religione o il sentimento religioso siano prese a sassate. La libertà religiosa, espressione del cuore dell'uomo, è veramente la madre di tutte le altre libertà. C'è da chiedersi però quando l'invocare la libertà religiosa diventa per alcuni il programmare un clima terroristico, violare i diritti essenziali della persona, la quale può anche abbandonare la fede precedentemente professata senza che per questo sia perseguitata. Se l'Islam ha ragione di protestare quando sono ridicolizzati personaggi importanti della sua storia, deve anche procedere a una purificazione interna e chiedersi se prima ancora di difendere la religione è il fedele ad essere veramente libero di aderirvi. Senza questo processo di ragionevole revisione, che è stato tra i più difficoltosi nella storia culturale dell'Occidente e a cui la religione cattolica stessa si è sottoposta, saremo sempre alle prese con i fondamentalismi religiosi dalle conseguenze violente. Quanto è bella e forte la frase di Gesù di Nazaret quando dice: «Con me conoscerete la verità e la verità vi farà liberi», affermazione esplodente per il cuore dell'uomo. La verità però non si impone con la costrizione, altrimenti non genera libertà e quindi non genera l'uomo libero. Mi ha fatto pensare un'affermazione del presidente Luciano Violante al meeting di Rimini, quando diceva: «Mi ha colpito il messaggio del Papa, parla dell'uomo come creatura di Dio». Creatura, che è diverso da creato, viene dall'infinito futuro del latino, è qualcosa che si deve creare, cioè che non è terminato, e quindi può cambiare. Io non sono cattolico, ma dai cattolici ho capito una cosa di fondo, che l'uomo può cambiare e bisogna aver sempre fiducia nel suo cambiamento.